questo progetto integrato ha un suo fascino, per così dire. Il problema è se è conveniente sia dal punto di vista economico, intendo dire, ma anche conveniente in questo momento della situazione economica generale ed energetica. Parliamo di carbone. In Italia il carbone viene già utilizzato secondo una certa quota nella produzione di elettricità. Ma ancora più importante di questo, e sono più specifico, ne stiamo utilizzando per il 15% dell'intera produzione elettrica contro il gas naturale che è il 40% e le fonti rinnovabili che sono il 37%. Siamo in una situazione in cui a causa della crisi economica abbiamo eccesso di capacità di generazione elettrica, cioè abbiamo un eccesso di impianti che possono generare elettricità rispetto a quanti sono i consumi alla domanda. Quindi in questa fase pensare a una nuova centrale elettrica, che sia carbone o meno, termoelettrica a maggior ragione con il problema dell'inquinamento, sarebbe una decisione politica che difficilmente potrebbe essere avallata. Anche indipendentemente dall'aspetto economico. Venendo all'aspetto economico, va detto che questa tecnologia che ho appena detto non ha ancora raggiunto il mercato, nel senso che è commercialmente utilizzabile, è ancora in fase dimostrativa. Cosa vuol dire fase dimostrativa? Vuol dire che noi sappiamo che questa tecnologia funziona, ma perché in impianti pilota in alcuni casi già funziona particolari, ma si deve ancora utilizzare su ampia scala, le normative devono essere approvate, certe condizioni devono ancora essere verificate perché si possa pensare ad un'adozione su larga scala che porti con sé ovviamente una riduzione di costo. Il costo attuale di questa tecnologia la rende ancora non conveniente, per questo è necessario ricorrere a dei finanziamenti.